Liberi Dentro Eduradio, il programma che fa da ponte tra il carcere e la città. Lunedì 14 febbraio, buongiorno, bentornati a tutti i nostri teleradioascoltatori e ascoltatrici. Siamo su Liberi Dentro Eduradio TV, il programma che fa da ponte tra carcere e città e che va in onda tutti i giorni, un'ora al giorno, su Radio Città Fujiko e Lepida TV, canale 118. Io sono Caterina, qui con voi con Antonella Cortese. Ciao Antonella, buongiorno. Buongiorno a tutti e a tutti, ciao Caterina, bentrovata. E oggi è una data che è riconosciuta da tutti, come il giorno di San Valentino, e quindi io non posso che cominciare con una notizia che riguarda il carcere, ma che è legata anche un po' a questo, perché leggo dal giornale: vietato innamorarsi, un caso in Danimarca, la stretta sull'ergastolo. Il governo impedirà ai detenuti nuove relazioni nei primi 10 anni, stop, pure a permessi e lettere. Ecco, non è una notizia bella, ecco, riguardante il carcere, però ci apre una finestra sul mondo della Danimarca riguardo alla detenzione. Quindi niente San Valentino, anzi direi meglio niente affettività per gli ergastolani in Danimarca, in base a un progetto di legge presentato dal governo danese il 15 settembre dello scorso anno. E proprio nel mese di gennaio 2022 si è aggiunto quindi alla detenzione un altro supplizio, ecco, cioè il divieto di avviare nuove relazioni sentimentali in carcere almeno per i primi 10 anni di detenzione. È un disegno di legge del governo guidato dalla premier socialdemocratica e prevede che i contatti degli ergastolani al telefono, per corrispondenza oppure anche online, siano contingentati alle persone che i detenuti conoscevano prima del loro ingresso in cella. Quindi anche vietato non solo le relazioni, ma pubblicare liberamente post, commenti o riferimenti ai propri reati sui social media oppure discuterli su podcast. Beh, per noi questo è un mondo parallelo, perché tutto questo da noi non succede, non può succedere perché non è permesso. Però vorrei capire perché in Danimarca hanno operato questa scelta. Eh sì, hai ragione. Infatti ci apre un'altra finestra su un altro mondo di detenzione. Ma mi chiedevi le ragioni di questa stretta. Ecco, il rischio è che da dietro le sbarre le persone detenute finiscano per generare una sorta di attenzione malsana, ecco, anche di curiosità, specie su giovani menti facilmente suggestionabili. E parte tutto da un caso reale, anzi da alcuni casi accaduti. Caso emblematico che ha mosso in direzione della nuova normativa è quello di una 17enne che si è innamorata di questo inventore, Peter Madsen, tristemente noto per essere stato il killer della giornalista Kim Wall nel 2017, il cui corpo fu fatto a pezzi dopo l'invito di lui per un'intervista a bordo del suo sottomarino. Caspita, Caterina, è una notizia interessante, però in realtà sì, diciamo, la nostra situazione in Italia, come dicevamo poco fa, è molto diversa. Cioè, noi non abbiamo neanche uno spazio per le relazioni affettive, per questi incontri, ma neanche se ci sono, diciamo, situazioni coniugali in atto. Quindi, insomma, veramente per noi sembra tutto così, così strano, così diverso. Diciamo che in Danimarca, per limitare un po' i rischi di cui parlavi tu prima, a che cosa si è ricorso? Che cosa fanno alla fine? Alla fine, per evitare nuovi casi di questo tipo, si prevede il divieto di nuove relazioni sentimentali anche per persone rinviate a giudizio o che si trovino a custodia cautelare per crimini che potrebbero comportare una condanna all'ergastolo. Prevede inoltre, come dicevo già prima, di vietare agli ergastolani di parlare dei crimini commessi sui social media o con i giornalisti. E anche in questo caso il progetto di legge si riferisce a un fatto accaduto che riguarda sempre Peter Madsen, che nel 2020 aveva parlato dell'omicidio da lui commesso in una serie di telefonate con un giornalista danese, il quale le aveva registrate e poi utilizzate in un suo documentario. Interessante. Ma tutto ciò è sostenuto anche da altre rappresentanze di governo, oppure è, diciamo, una scelta un po' isolata, una proposta un po' isolata? No, è abbastanza condiviso, però c'è un po' di spaccatura. Quindi, oltre ai socialdemocratici che guidano il governo di minoranza con a capo questa premier che ha proposto il disegno di legge. Il progetto è sostenuto dai partiti di opposizione di centro e di destra. Invece contro questa proposta di legge si sono espressi i membri della sinistra radicale, che è un partito che appoggia il governo pur non facendone parte. Secondo la sinistra radicale sarebbe meglio intervenire nei confronti delle singole persone anziché generalizzare su tutti gli ergastolani, e sinceramente è una posizione che mi sento di condividere. Infatti Carina Lorentzen, che è la portavoce del partito, ha detto che la legge non dovrebbe applicarsi anche ai detenuti condannati all'ergastolo che stanno scontando la loro pena in modo normale e tranquillo. Naturalmente tutto questo potrebbe avere degli effetti domino su chi sta cercando di riparare al suo danno commesso, no? Poi anche Maria Ventegot dell'Istituto Nazionale Danese per il Rispetto dei Diritti Umani ha detto alla BBC che l'organizzazione esaminerà il progetto di legge nelle prossime settimane, soprattutto in relazione al diritto alla vita familiare da parte dei detenuti, le cui relazioni sentimentali sono protette dalla Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo. Ma io vi chiedo cosa ne pensate, proprio voi che ci ascoltate in questo momento, oltre le mura, e tutti voi cittadini che ci ascoltate su Fujiko, scriveteci a redazioneliberidentro@gmail.com. E adesso una piccola pausa musicale, Che cos'è l'amore di Vinicio Capossela, ci rivediamo tra pochissimo. Cos'è l'amore che vive al vento, che senza suo lamento sulla ghiaia degli ali del tramonto, alla bocca gelata che ha perso il suo gazebo, guida la stagione andata all'ombra della prima San Susì. Che cos'è l'amore che vive alla porta, alla guerra rovina nera, suo romanzo rosa che sfoglia senza posa, al saluto riverente del peruviano dondolante che chinò il capo al lustro della settima colante. Ai permette, signorina, signorina della mattina, con l'occhio tutto rocco sotto i lumi della camisa rocco. Ma s'appoggi pure volentieri fino all'alba, l'umidità di bruma che ci asciuga il cibo solo. Che cos'è l'amore? Un sasso nella scarpa che punge il passo lento di bolero con l'amazzone straniera, stringere per finta un'estrana cavaliera, il rito d'ogni sera perso al caldo di bua di San Susì. Che cos'è l'amore? È la ramona che entra in campo e come una vaiassa a colpo d'osso della muove della squassa, ai tacchi alti il culo basso, la pancia nuda e si dimena, scotta la testa da invasata col consesso dell'amica sua fidata. Ai permette, signorina, sono della cantina, ma vero nella vigna sopra l'oro nella cucina. Ma suo monarca, suo poeta, se ne sta la miseria, dici tutto con dignità. Che cos'è l'amore? Posto d'oltremare che lontano solo prima di arrivare, partita sei partita e mi trovo ricacciato mio malgrado nel girone antico qui dannato tra gli inferi dei bar. Che cos'è l'amore? È quello che rimane per spartirsi e litigarsi nel settaggio della penultima ora. Qualche sterda d'avarino mi permetto di salvare il suo destino dalla rullo cacciata degli immigrati accesi della banda San Susi. E rieccovi, bentornati dopo la pausa musicale, siete sempre su Liberi Dentro di Radio TV. Passo il timone a te, Antonella Cortese, parliamo sempre ancora di San Valentino, la festa dell'amore. Sì, sì, oggi parliamo di San Valentino tutta la giornata in qualche modo. Tu hai anticipato quel interessantissimo articolo sulla Danimarca poco fa e io invece voglio parlare semplicemente di San Valentino perché ormai è una festa diffusa in tutto il mondo. E, però facciamo un po', diciamo, la storia di questa festa, perché per gli antichi romani febbraio era considerato il mese in cui si preparava l'arrivo della primavera, che era un po' ritenuta, come tuttora lo è in realtà, la stagione della rinascita. Si iniziavano i riti di purificazione, le case venivano pulite, si spargeva del sale oppure addirittura della, una particolare farina in casa che era propiziatoria, e verso la metà del mese iniziavano le celebrazioni dei Lupercali, che erano gli dei che tenevano i lupi lontani dai campi coltivati. E poi i Luperici, che erano appunto i sacerdoti addetti a questo culto, si recavano alla grotta, che secondo la leggenda era il luogo dove la lupa aveva allattato Romolo e Remo, e qui si compivano dei sacrifici propiziatori, e il sangue poi degli animali veniva sparso lungo le strade delle città come segno di fertilità. Però Caterina, il vero evento, tu mi dirai perché dici tutta questa parte, perché poi c'è il vero evento, e il vero evento è la lotteria dell'amore. La gioventù romana di allora partecipava a questo gioco collettivo in cui i nomi delle donne e degli uomini, che adoravano ovviamente questo dio, questa divinità, venivano messi in un'urna, mescolati ed estratti da parte di un bambino che praticamente formava queste coppie che assortiva così secondo il caso, e che per un anno convivevano di fatto. L'anno successivo si ricominciava a fare questo gioco. Interessante prospettiva. Interessante, però in tutto questo non ci hai ancora detto niente di San Valentino. Hai ragione, perché nel 496 d.C. Papa Gelasio annullò questa festa pagana, ovviamente, sostituendola con quella di San Valentino Vescovo, martirizzato dall'imperatore Claudio II in quanto univa in matrimonio giovani coppie alle quali l'imperatore aveva negato il consenso di fatto. E prima della sua esecuzione, Valentino, che pare si fosse innamorato della figlia del suo carceriere, le scrisse un'ultima lettera firmandola "dal tuo Valentino", frase che tuttora è in auge. E preciso che ci sono tante leggende su Valentino, quindi insomma la prendiamo un po' col beneficio dell'inventario, senza voler rassurgere a verità. E nonostante comunque siano passati tanti secoli, questa festa ha sempre mantenuto il significato di celebrare l'amore, e ovviamente ha anche, diciamo, una componente molto commerciale, dobbiamo riconoscerlo, perché poi è diventato il modo per, diciamo, scambiarsi tutta una serie di doni, di cioccolatini. Ecco, il cioccolatino è l'emblema della festa di San Valentino, almeno in Italia è così. Comunque non è molto chiaro, come vi anticipavo prima, se la storia di San Valentino sia effettivamente veritiera o meno, perché le vicende riguardanti questo famoso santo sono abbastanza confuse. Però diciamo che intorno alla sua figura ruotano tante storie, e qualche sfondo di verità forse da qualche parte ci sarà pure. E raccontaci dove si festeggia nel mondo, ormai è diventata una festa molto conosciuta, vero? Sì, è molto conosciuta. Pensiamo per esempio agli spagnoli, che sono un popolo passionale un po' come gli italiani. Trascorrono la serata facendo una cena al lume di candela, poi passeggiano, si concedono un weekend romantico fuori, e se si abita nelle vicinanze di Siviglia si sceglie proprio quella zona lì, che è la patria poi del fandango, no? E in Germania si festeggia molto, in modo molto simile a noi, con bigliettini, fiori, cenette romantiche, regali. Mentre Caterina, per gli americani San Valentino non è solo la festa degli innamorati, ma è la festa proprio dell'amicizia, della famiglia.

Parlami adesso invece del tuo approccio, il tuo primo approccio con le persone in carcere. Cosa hai provato? Quali sono state le tue emozioni? Sì, il mio primo approccio è stato particolare, perché normalmente uscire da fuori, con l'idea che avevo in Africa, quando avevo visto mio fratello in carcere, era diverso. L'ultima volta che avevo visto mio fratello in carcere in Africa aveva le catene legate ai piedi. In un altro carcere dove ero andato a trovare mio fratello non gli si poteva vedere, c'era una finestrella in alto dove lui saltava e vedevo la sua faccia così che appariva. Quindi quando sono andato qua per la prima volta in un carcere non potevo capire come avrei trovato i detenuti, se erano legati con le catene ai piedi, se erano chiusi che non li potevi vedere. Quindi all'inizio l'unica cosa che mi ha stupito un po' sono stati i muri altissimi, però quando ho incontrato concretamente i detenuti, qualcuno addirittura era vestito molto più elegante di me, erano puliti, stavano bene, erano tutte persone normali, apparentemente bene, intendo, capito? Ovviamente quella curiosità in faccia c'era. E poi un'altra cosa che ho notato, che poi ho capito negli anni, è che quando ti incontri con i detenuti la prima volta ti psicanalizzano dalla testa ai piedi, si interrogano perché sei lì, vorrebbero capire, anzi quasi quasi ti provocano, ti stuzzicano per capire se sei un turista che stai venendo giusto a curiosare o se davvero stai venendo lì perché ti interessano i detenuti. Io ovviamente sono andato con un pregiudizio positivo, sapendo che mio fratello grande era una buona persona, quindi sapevo che avrei incontrato delle persone buone. Quindi davanti a questa perplessità iniziale io mi sono proposto con positività, mi sono messo a disposizione e poi col tempo ha ripagato. I detenuti si aprono totalmente con me, anche perché io mi apro totalmente con loro, anche perché i miei momenti che ho impostato per la mia attività in carcere sono i miei momenti di vita. Vado in carcere per me, mi dà soddisfazione stare lì, imparo molte cose, vado lì già predisposto ad imparare, perché so che incontro delle persone che hanno vissuto e stanno vivendo una esperienza molto particolare, da chi posso imparare moltissime cose. Adesso una piccola pausa per noi, ci ritroviamo presto dopo lo stacco musicale. ضايع بين الحيوت وما لقيتش بلاصه حومه بين بلاد الهوت يما خلوني بشي خامس موت وحكموا ناس الراقه والكراسي بالهبوط نحب نشد الروت ونقلب المناظر نقلب وجهي من هنا يما ما نحب نعيش الاحياء بالموت نوفا كيما ولد الزارع بشي خاطب له يا ليلي ويا ليلى وش باش نشكي لك يما وقالوا لي ليلى صغير وفي قلبي غمة حب الدين ودير الفوق يحبوا يقصوا لي جناحي قولي ذكراني مخنوق منك طالب اسماحي ريوس الرجالة ميلة رزنت بالتخمام وبشي خالة مخاخم بيلة ولاد الحومة اشواتنا مقيلة شرف العينين بالخير ما يشمس تفيلة حبوا يسوقونا كيف الزيلة ومربط في زريبة وخطوة السكينة مكيلة يحبوك بري ما عندك شي عيلة نعيشوا في سيستام حكمه ولاد المتحيلة يحبوك غايب على الوجود ساكت على حقك وراضي باللي يحبو موجود يما تجري وماكش خالط على الكوت شخلى ولاد الحومة قطع قطع من الحدود سيدو في قفصك مربوط وذبع مسيب وزيدك لك عشاك يما حبوك قاعد في زنقة مرفوض والمستقبل اللي تشوف فيه متعدي بحذك يا ليلي ويا ليلى وش باش نشكي لك يما وقالوا لي ليلى صغير وفي قلبي غمة حب الدين ودير الفوق يحبوا يقصوا لي جناحي قولي ذكراني مخنوق منك طالب سماحي يا ليلي يا ليلى وش باش نشكي لك يما Eccoci tornati dopo un breve stacco musicale, ritorniamo a parlare insieme a Fabian Lang di volontariato in carcere. Parlando sempre delle persone detenute, quali sono i bisogni principali che tu riscontri nelle persone detenute quando le incontri? Il primo bisogno in assoluto è quello di poter uscire, di poter avere un aiuto per poter uscire. Quindi in generale ho visto che coloro che vengono a partecipare, la prima cosa che li porta è il fatto che vedono un gruppo esterno e si aspettano che ci sarà una possibilità che può aiutar loro nel loro desiderio di uscire. Però poi, subito dopo, la cosa che ho constatato è quel bisogno di parlare con qualcuno che viene da fuori, qualcuno di diverso. Perché, come potete immaginare, stare lì chiusi con le stesse persone fa sì che dopo un po' hai già esaurito tutti gli argomenti con quelle stesse persone. Quindi semplicemente parlare con un'altra persona è importante. Io noto molto questo bisogno perché, tipo da immigrato, quando sono arrivato in Italia, tutte le volte che mi parlava una persona italiana, per me era un segno di accettazione. Per me era come per dire, questo paese mi accetta, una persona di questo paese mi sta parlando. Questo, quasi questo tipo di senso l'ho avuto anche con i detenuti a parlare con persone fuori, va bene? Perché come mi vedete sono un uomo grosso, brutto, capito? Però loro hanno il piacere di parlare con me tutte le volte. Rieccovi e bentornati, sempre per i saluti di fine puntata, qui su Liberi Dentro di Radio TV. A seguire la nostra rubrica, l'intervista di Antonella Cortese a Kento, il rapper e scrittore di Barre, che racconta la sua esperienza di formatore nei carceri minorili. E scriveteci a redazione liberidentro@gmail.com e noi che vi salutiamo, io che sono Caterina, Antonella Cortese, Enea Flacco, Diana Bota e Paolo Aleotti, ci rivediamo domani. Liberi Dentro Eduradio, il programma che fa da ponte tra il carcere e la città.